porta, che cos'ha di diverso da una persona normale, un pazzo? Chissà come si diventa pazzi, tu lo sai. Come pensi che sia un pazzo tu? No, ma com'è, secondo te, come si comporta, che cos'è? Che cos'ha di diverso da una persona normale, un pazzo? Chissà come si diventa pazzi, tu lo sai. Sì, ma un pazzo com'è secondo te? L'hai visto mai un pazzo? E dove vengono portati i pazzi? Come pensi che sia un pazzo tu? No, ma com'è secondo te? Come si comporta? Che cos'è? Che cos'ha di diverso da una persona normale? Chissà come si diventa pazzi, tu lo sai. Evviva! Così almeno tutti voi potete capire la differenza fondamentale che c'è tra noi e loro. Noi non andremmo mai, mai, mai siamo andati a disturbare l'incontro tra qualcuno dei loro capi, dei loro leader e i loro elettori, perché noi siamo uomini e donne democratici e di libertà. Si sono messi a strumentalizzare la paura, la speranza, il dolore, i morti, vergogna! Non avete dignità, non sapete cos'è la nobiltà d'animo, non sapete cos'è la democrazia, non sapete cos'è la libertà. Siete ancora e oggi come sempre dei poveri comunisti. Ed è inutile che speriate di buttare giù questo governo e di buttare giù questa maggioranza e di mandare a casa tutti noi con le trame giudiziarie, con gli attacchi mediatici. Siamo la maggioranza del paese, dovete rendervene conto, e in un paese democratico la maggioranza governa. Prendo atto che loro sono quelli che sono, non è colpa nostra, non è colpa vostra, se sono così, dobbiamo renderci conto che sono proprio così. Siamo in una parola antropologicamente diversi. Noi siamo persone di buona volontà e di buon senso, noi amiamo gli altri, noi apprezziamo gli altri, noi rispettiamo gli altri. A cominciare dai più deboli, noi non abbiamo invidie personali, noi non abbiamo odi politici, loro sono dei puri invidiatori ed odiatori. Vergogna! E non capiscono nemmeno le persone, perché io all'età che ho potrei anche stancarmi e andarmene a casa, ma fin quando continuano a comportarsi così, non fanno che convincermi a restare qui contro di loro. Che pena che fate, mi fate pena, mi fate disgusto, ci fate pena tutti noi. È in preda alla paranoia più completa, è convinto di essere in contatto psichico con qualcuno. Io non essere liberale, credo che se c'è una cosa che almeno possa essere messa in dubbio è che sono un credente della libertà di mercato. Allora, ho una... Lasciamela dire perché è troppo bella.